Delio Tessa e il caval de bara. Andai turna per Milan a certur le un testament, car vicur un rabadan de tramvai. Gen sulla gent, rebutonen pestencai. Oi, ai, ai, ai, ai, ai, ai, che il guarda in duel va! Se te ghedde traversà, non te disi peu, le un guai. Mi, che son già de natura spaures, e minga se son tu bisanca, segura, guardi in ans, de part, de dre, slunghi il col de chi e de là, come gli ursin di gabiot, disi un pater e peu, sot, chapies lans e metrulà, giusta quand, se la ven fada, me ven contra un cariage automobil de vulada. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai, Gesù, che sgaccio! Salta in dre, ghe giughi il cu che furì di capelun, benedet chi pantalun che se casce in anca un pu e scarlighen via quiet, quant mi, in scambi fioi, de trat in trat, c'appi su un sgaget che me fan da via il lat. E che ne è de sti pampos che se tiren mai de banda e s'impipen de l'Ulanda? Che peden burla d'ossi culom de San Lorenz e non fan un pass in là. Per esempi, quel Melens d'un me amis, quel Mustafa in poltrona d'un Antoni Galbarin, le vun de quist, sì signor, e ierno vis giusto un alter, un demoni d'un caval de bara. Che no de rid, perché anche i besti gan il suo carater. Che chi cattiv? Guai se mi intesti, lasem sta, tiri pesciad. Che chi pover turluru, che se lasem pesta su, pampusson, ne frec ne cald, ma sucuni, cristianin, come quel caval de bara che passava in via Turin. Ti sta gente, la gamma gara pressa, e mi? Usco de fac. Me pareva che il dises. Anca cur, per me lei stes, pe, son strac, non posso più dac, cic e ciac, e tira, mi vuodasi, pesta pur, tan, quando giò il su, le sira, mi vu pian, ti pesta pur, cic e ciac, e piev, su sti prei, quan le bagnà, burla giò, le subit fa. Porti can per l'orgen neuf, a una gesa de Milan. Summasà, un'anca fam, pica pur, che mi vu pian. Vedi l'ura de buttam là. Su mort in 30 mia con sta carega de can in sul geb e in ans tut l'an con sta vita 30 mia come in che duman des mia pos duman magara nient pe amo des quindes e via in duestu sacramento una gesa tirem la cic e ciac, finché dem fia che slisciat su masarà, de che par gude passà, chi è un car, là è un tramvai che me ven sui corni. Sona, sona, sona, sfoghet pur, vu sui riutai, per faccica, guarda. Sona, sona pur che non me mevi, anzi, te, me fermi, ciapa, le già un po' che la me scappa, oi pissà, segura, previ. E lì saldo, e il sen ciudà, in del mes, lì della strada, slarghi i gamp, e il gamula giù, un slaveggio d'una pisada, va ti impicca! Vedete no che è il tram de Nance, va là! Ui, va là! Non può spesso un momento che pressa e già boh, già, maledecciola! Già col manic della frusta, te finite svuia lula, pur selvaca, ui, mo giusta, chi fermas, proprio chi in sci, malarbezzo i rutai, ui che furia, forza, dai, posa, tira, forza! Oh sì, oh des, non capinco, leva! Saldo lì, e nanca un sgris, la podu fal meuve. Pareva che l'avesse mis gioi radis. Finalmente, dopo un bel po', quan la vu finì so cos, quel beato requia pos le andà là, scurlendo il cu, lui e la bara. Cic e ciac, gavi furia, tanto mei, non me casci, mi son strac. E vu pian, che su sti prei, se fa prest, ades che il piev acciapà una scarlighetta. Le andà giò de via Lupeta, lui e i can per l'orgen neuf. Il caval de bara di Delio Tessa, pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International.